Bello! È un famone! Che è un famone! Sì, sì. Oh, yeah. Eravamo in campugna. C'è una tan fredda oggi però, eh. Ma tagliando erba non ce n'era freddo. Eravamo da Gio Maria, lì in campagna, Gio Maria. Mi senti, sto usando sempre quel pezzo di filo. A voglia, forte e chiasso. Sta penzolone, lui si è appoggiata sul divano. E lo dando? A fondo scala, sì. Eh? A fondo scala, sì. Già funziona bene. Che c'ha già penzoloni così, tutta la capito. Già funziona bene lo stesso. Lo tu sai? Lo dando, E gufo! Mandagli un messaggio, no. Attento, gufo, triste. Attenta gufo, non mi tassi. Ma un po' di erba c'è da tagliare. Un po'. E che poi quando cresce troppo, il coso fa fatica, capito? Diventa più grossa, più dura, è vero. Già lo so. Ma c'è il disco o la lenza? Il filo già è buono, però quando è troppo alta, diventa mattana. Pure tu sai. Vabbè. Già lo so. Mi hai fatto altro messaggio lui, di quella roba là. Adesso va a aspettare il tempo. Ma ho capito la Poste P, cosa c'entra la Poste P? La Poste P. La Poste P. Sto facendo vedere tutti la Poste P. Non è la Poste P, è simile. Ah. E a te, arrivata a te. Mi è arrivato il secondo messaggio. Che è approvata, così. Altro messaggio ancora. Che è stata approvata? Sì, devo aspettare il coso delle poste, boh. Guarda, io ti dico che non... Se no mi ero... Giusto, ho chiesto informazioni, ma non mi hanno manco risposta all'Inps, per vedere un po'. Alla fine ho detto, dai due buoni, non mi interessa. Ma se ne capisce niente, in effetti, boh. Sì, comunque è un casino, perché hanno detto che se tu... ti rifiuti dal lavoro o ti devi restituire i soldi? Praticamente se ti danno in pratica soldi in anticipo e poi ti rifiuti li devi restituire, giusto? Sì, così hanno detto, però lo so tu. C'è chi dice che ti chiamano, cioè che te li danno anche senza chiamarti, non si capisce niente. Poi non so, ho letto che se dichiari falso 2 anni, a 2 anni, a 6 anni di galera, ma cioè, così da passi, cioè, alla persona, sì, ma ci sono i furbi, perché ci sono, ce ne sono tanti i furbi, ma, cioè, non è che uno lo può condannare, per cosa, ma si è 100 euro, dico, ma, comunque, se vediamo un po', vedo un po' di informarmi da qualcuno, se riesco a farmi assumere, non penso tutto il giorno, almeno 4 ore, non di più, che sono... C'ho tutto 100 euro, capito? Non se ne capisce niente questa cosa. Trovo qualcuno che mi assume. Qui scaliamo da lì. Io problemi di andare non ne ho. Ma se tu ti butta una Olbia, come fai? Cioè. Ma non c'è la convenienza. Se ci devo rimettere. E cosa posso fare? E quello è che uno si chiede. Io quelle ore lì te le posso fare qua, per quello che mi stai dando. Perché comunque, insomma, ma non è che ti devi uscire a Olbia e vitto alloggio e tutto quanto, mi sono pagata, poi pagosa, fa 100 euro. O 200 euro che riesci a prelevare, non so quant'è, 150. Cioè, comunque io mezzo ne ho pure. Chissà, bella. Ma infatti non ne hanno più parlato neanche in televisione, cioè la gente è un po' così, E tu vai sul sito e vedi, qua c'è scritto, che ti si dichiari il falso, poi stamattina ho detto che se rifiuti le pure deve restituire questi soldi. L'ISE, ti dichiari l'ISE falso, sì, ma più di uno non è mica che la fendi così. per prendersi la rei e tutto l'altro. Però molti dichiarano molto falso, ma un bel mezzo. Il nostro è più che reale. Non lo so, non è fanno affidarsi, boh. A chi non l'hanno mai pizzicati, ma si controllano e pagano in tutti, da poi a chi non è dato più nulla. Dopo non è il libro nero e se ne pensa. Guarda, adesso dovete già ritirare me, la schiera. Alle poste. Ma chi io? Ehi, la puoi già ritirare. Non aspettare il terzo messaggio è praticato il giorno d'andarci. Lo puoi ritirare direttamente adesso. Una volta che hai ritirato la carta, devo andare all'ufficio di collocamento, tirare un foglio, copiare quello, infatti si è avvenuto più foglio che tu sei disposto a lavorare e ti chiamano loro, capito? Ah, così, non lo sapevo, era così. Comunque c'è scritto, aspetta. C'è scritto, aspetta. Allora, è stata accolta, a breve riceverà comunicazioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali. Allora vai direttamente all'ufficio postale tuo, una volta che ti ho un messaggio con un numero ben lungo, capito? Un numero di riferimento in pratica. Appena che arriva quel messaggio puoi andare tranquillamente a ritirare la carta. Capito? Tu ce l'hai già. L'ho ritirata la settimana scorsa. 701 me l'ho dato a me. Tutti sei andato al collocamento per fare questo foglio, che se ti chiamano al lavoro devi essere disponibile. Quello l'ha ritirata per la tia Giuseppe, l'ha portata a casa, io l'ho compilato e adesso domani mattina devo consegnarlo lì all'ufficio di collocamento, capito? E adesso vediamo, ma è vero che se non ti rifiuti, è vero che poi gli devi rimborsare i soldi? Non devi rimborsare nulla, se ti danno in pratica, prima ti chiamano qua vicino, se rifiuti quello ti mandano più lontano, capito? Arrivato poi alla tua chiamata che tu non ci vai, allora in pratica ti chiudono la carta, hai capito? Non ritiri più l'accidente. Per esempio Gustonzati dice che se tu non ti rifiuti, praticamente, come si dice, che gli deve rimborsare i soldi. Poi non so se stamattina stavo leggendo se dichiari il falso, non so, dai 2 ai 6 anni di galera ci sono. Sì, vabbè, se dichiari il falso, fatta se la colgono subito. Non ti arriva mai con il messaggio, quindi se tu hai dichiarato quello giusto, di parte non ti troverai lavorando, perché se tu trovi a lavorare ti puoi venire in galera, solo quello, non puoi lavorare in nero, hai capito, per niente. Perché in qualsiasi momento puoi arrivare un controllo a casa e chiedere dove sei. Se ti portano lavorando, c'è l'arresto, c'è, hai capito? Da 6 mesi a 2 anni. E ora già mi confermi. Ma carità, ma cosa ti dico? Che io, meno male, mi arrangio, gliela lascio proprio, ma prima manco ci vado a ritirarla. Te lo sto dicendo così, c'era un sacco di gente comunque che si era ritirata. Hai saputo l'altro messaggio, quello dove c'è un codice di riferimento di 15 cifre, vai immediatamente alle poste e ti ritiri la carta. Tanto ti chiedo quel foglio. Cioè ti chiedono, quindi non è quel foglio, ti chiedono quel codice, carta d'identità e codice fiscale devi avere, e immediatamente ti danno la carta. Ma dimmi tu, non ti fai una campa con 702 euro al mese, me lo spieghi? Ma questi sono veramente pazzi, cosa da pazzi? E te Zulu, e c'è il tipo del nero. A che ti sigli? Ma non puoi guardare la carta all'altro, figurati, devi tenerla tu. L'unica cosa che puoi fare è trovare magari qualcuno che ha bisogno di medicine e cose del genere, e tu lo accompagni, capito? Gli dai lo scontrino a lui e tu ti farai i contanti. E sei più tranquillo. A meno c'hai. Perché come fa uno senza fumare? Cioè io non fumo, ma immagino un tipo che fuma, cosa fa? Va a tabacchino e fuma le sigarette e fuma. Con la carta è la carta Mastercard, capito? Se non lì funziona, solo col Porsche Mastercard. Sì, ma non ho bisogno di fare queste cose perché serve per pagare le cose, ma posso anche fare così che se non vado io va mio fratello al lavoro, o devo andare per forza io? Devi andare per forza tu che hai fatto la domanda. Perché io l'ho fatta, appunto nel caso vado a loro, va lui a lavorare, capito? Se a me mi serve qualche lavoro, vado e mi faccio il lavoro, sono più tranquillo e tutto. Allora posso, ma poi cioè sono uno schifo, dammi tutti i soldi a me, tutti i soldi che mi posso prendere, no 100 euro solo, cioè ma ti rendi conto, secondo me è una cavolata, grande. E puoi tirare solo 100 euro, tu il resto devi pagare tutto con la carta. Mi sono fatto la fusa e mi sono preso il microfono e me l'ha dato. L'MP4 35 euro, più il CDC ho comprato, figurati, se hai Porsche Mastercard, tranquillamente puoi prendere quello che vuoi. Vabbè, comunque dice di metterlo. Ma come fai a fare quanto c'hai? Perché ti controlla lui il saldo ogni tanto, capito? Bisogna farlo fuori entro un mese, quello che ci rimane poi dentro deve rubicciare, cioè in pratica il mese dopo non lo trovi. Quindi devi essere molto veloce a mangiarti 700 euro, 600 euro, quelli che sono. Basta che vai tutti i giorni a fare la spesa, ti compri un bel po' di roba e così anche la fare farmacia, per dire. Già ne fai fuori subito con i soldi così. C'è un mese di tempo. Capito, ma secondo me c'è il conto, ti ha ritirato la faccia e si la mia mania. Figurati. Vabbè, dai, 2 minuti che collego l'MP4 al corso, al 2009. Già riprendo fra poco. E Lu? Ma tu non la fai, no? Ah, Luca, tu non la fai la domanda. Ehi, la faccio perché mi devo comprare il Turner più 3. Ho capito. Ma mi sembra che il corso mi compri 140 io. Come lo chiudo a capo. E si compie Gianni che hai comparato le cose. ma infatti passava a tirare di tutti e bombato, lo sai chi via va. Cos'è Lu? Giusto, tira via da di tutti e bombato, cosa me ne fai se uno paga dei bolletti o. Ammiri, dopo i tuoi fottitini di cosa ne posso io, importante chi mi dirai. Oh, allora, guarda, ce n'è il lavoro da fare qua. Ce n'è tanto. Ce n'è da raccogliere bottiglie, tipo piazza del Turino, esempio, no? C'è un mondezzaio. Perché non mettere un po' di persone e pulire, tagliare l'erba che c'è, magari nei punti che quelli per tagliarla non passano. Ce n'è da fare. Cosa cacchio mi mandi a Olbia, la cosa? Ah, vai che non ci va nessuno. E se fai un giro di conti sei disotto. Comunque mi informo bene, dai. Ti lo chiedo a quello delle poste. Certo, se... Ma io non ho capito, ma... Perché me li devi dare? Cioè, se dammi lavoro, no, poi decido io. Se non mi conviene non ci vado. Ma perché mi devi dare soldi in anticipo, non so, per 2-3 mesi, poi mi chiami... Non ci vengo perché mi stai mandando in punta di casino e arrivo i soldi indietro, che senso ha? Allora non me ne dà di nada già del comenzo e dammi lavoro, poi valuto io se mi conviene o non mi conviene. Ma infatti, cosa c'è 100 euro? Cosa te ne fai? Adesso devo vedere un po', vedere e valutare, anche se la domanda l'ho fatta io, cosa pensa? Perché quella la domanda non l'ha fatta lui, ma ci sono pure io in mezzo. Eppure, cosa... Vabbè, adesso vediamo. Ma perché a tutte e due? Sì, dovrebbero darla a tutte e due. Ah, io so che lui è uno stato di famiglia e anche nel modo dell'Oise. Se io non vado, va lui al lavoro. La lascia a loro, la carta va a lui. L'accento se l'ho fatta io. L'ha fatta uno di... cioè, un familiare, ecco. No, quello non c'entra niente lui, quello non c'entra niente. Se l'hai fatta tu, chiamano a te, se l'ha fatta lui, chiamano a lui. Non è che tu puoi dire a tuo fratello tu fai al posto mio. Cosa sei di offendi? Scusa un attimo, ma se io trovo lavoro, fai caso che trovo lavoro assicurato, cosa faccio? Tu questo fatto ti trovo nel neo, ti arresto, ma mica sei spacciando di droga, ma stiamo scherzando. Tanto vale come spaccia droga lui. Alla fine, ti vuoi poner agli arresti? Da 2 anni, Allora non è fare, cioè se uno non ha intenzione di andarci, non è fatto domanda, cosa la fai a fare? Allora, il discorso non è che non ci voglia andare, il discorso è che ti mandano troppo lontano e alla fine non ci rientri più con quei soldi, che poi sono anche soldi che devi spendere per pagare le cose, e se ho bisogno di soldi, cosa faccio? Ma infatti uno deve valutare e dire a me non mi conviene andare lì, boh, bloccameli, non li voglio più, perché se devo prenderli per andarci di sotto con vitto e alloggio da voi e a chi viaggia ogni anno falsi, sicché non conviene a prescindere. È inutile che io rinuncio a questa, alla domanda, e me ne mandi un'altra andare ancora più lontano. Se ti sto rifiutando questa perché non mi conviene, cioè è inutile che mi mandi più lontano, a chi non vado. Quello è, ma io mi dovrò informare bene, perché la cosa, cioè, non è che la giovata a chi voglio sovvisinare, a me se mi mettono a lavoro vado senza problemi, capito? Bisogna informarsi bene, non se ne capisce niente, e tutti li stanno prendendo i soldi, però se dopo ti mandano davvero lontano, non ti conveni, tutti quei soldi che ti hanno dato prima, cosa devi fare? Infatti, adesso vediamo, e valutiamo, appunto. Mi pare una meta smussata, ma io preferisco, guarda, un lavoro, meglio che travagliare, mi lavoro, faccio 6 ore, 8 ore, che se ne affutti, però se così mi piglio di là. Infatti, mamma mia, dai, se c'è la polizia, entro la base. Via. Luca! E Lu... Batti un colpo! Eh? Abbattere un colpo se ci sei! E Lu... Non va nessuno! Oh, c'è la Luca e Pomponio! E chi Luca flippa? Sì, è la vera che non si è sentito, non si è fatto vedere per niente, non te l'ha detto, Luca ci sei, flippero. In Giappone era. Allora le torrate cinese, Luca flippera ci sei, non risponde no. E cosa hai fatto oggi, per la bene? Ma chi io? E allora io, se quello là non mi risponde ho chiesto a te cosa hai fatto oggi. Poco fa ho visto a Marina con il cagnolino. È vero. Pugno a basso di tromba, è vero. Lo devo usare. Eia, l'ho vista correndo a tutto correre. Fa sembrava quella che fa maratonetta. E Luca non mi ha dato di girare la letta per si veda. E lui. Ok. A te la compri la scrivania con la sedia, 30 euro, vieni e te la porti via, scrivania e sedia. Sta giù di scrivania a casa, ne ho due. E due senza tre, e lì ce l'ha da Marina. Anche da Marina c'è, sì, è anche grande quella di Marina, ce ne sono due. Ah, ce l'ha, non conosci nessuno. Luca Flipper, ce l'ha. La pagina Graziano. Ciao Antone, e poi? Ti interessa a te che tu spazio già ne hai con la cameretta? Sì, ci ha avuto tutto questo spazio in questa cameretta, guai. C'è poca roba da buttare via. Di qui in camera, specialmente, mi. C'ho mezzo garage qui. C'ho due scatole di alimentatori, capite, di tutti i modelli, di tutti i tipi. Allora, in questi giorni ce l'ho scendo giù via le palottole, se li vuole, anzi per le mille, se li vuole è bene. Solo se la porca in culo e se prendo un cassonetto ce li butto. Alimentatori di quelli piccoli, da 4,5 volt, da 9, qualcuno da 12. Ma sono dei telefoni quelli, magari a Luca qualcuno li occorre, Luca! A me no, io ne ho, se vuoi ne do io. La giubba, c'ho anche il telefono che ho addirittura quello dove si parlava la televisione una volta, c'ho anche quello, immaginati, se lo metto la carta funziona. No, è carica batteria già ne ho, dai. Mi ha alimentato le bombe, mi ha dato una busta, me ne hanno regalato. Ma quei telefoni, Antonio, quello che avevi dato a me non funzionava, ce l'ho buttato. Sì, non ho più neanche uno di quei telefoni, tutti i lati li ho. Tutti quei telefoni là, di tutti quanti i lati. Poi avevo lavorato anche con quei telefoni della... insieme all'immagine, quelli che si vedono in casa, fissi. Figurati, ne ho dato i telefoni, me ne è rimasto solamente uno del cordless, anzi ne sono rimasti due della cordless e basta. L'ultimo l'ho dato la settimana scorsa, l'ultima generazione della Panasonic, capito? Quello che mi avevi dato non funzionava, ce l'ho buttato, ti ricordi che te l'ho detto? Sì, già me lo ricordo. Quello che c'ho adesso è cordless e l'avevo comprato da Conforama, 8 euro. Figurati, già costato poco, meno male. Oh, non costa di nulla, se vai e ti fai un giro lì da Conforama e guardi dove ci sono i telefonini. Quindi agitatura di telefoni, dichissimi. Costano anche da 5 euro ce ne sono, a me da Davide. Figurati. Io ho girato la cosa di ieri, sta palpetto, ho montato l'antenna dal così che ha lasciato il motore sotto. Perché devo metterci la crocetta, devo metterci per i tiranti. Ho tirato un po' i tiranti perché eravamo mezzo mollati. La direttiva poi è puntata contro adesso, quindi ti ascolto benissimo, l'ho messa più in alto, l'ho messa. No, infatti ti sento bene adesso. No, io sono col portatile e ce l'ho sul tavolo ed è pullulato di busca, perché se la metto dritto mi arrivi disturbato, invece così sei pulito. Ah, ho capito. Andà bene, andà bene. Faccio un esempio, prendo lo zoom sull'apparato omologato da Fusaro. Così me la sono a posto. Cosa ti hai ordinato un apparato da Fusaro? Sì, la prossima mese lo devo ritirare, capito? Non lo posso, se volevo ritirarlo adesso, ma non mi serve adesso. Gli ho detto la cosa a Marzia. Mettilo da parte, il prossimo mese me lo ritiro, gli ho detto. E ho detto un apparecchio da far fuori, e se non si mi riempie la casa di baracchini qui, non c'è più un tubo, quindi ne faccio fuori uno, 50 euro, mi compro quell'altro a 100, aggiungo 50 euro e sono a posto. Luca non è buono, gliel'hai chiesto, Luca caduto, sì. Dimmi, grazie, stavo parlando con Marina, dimmi. Che Antonello sta vendendo un apparato 50 euro, se ti interessa, di quelli buoni, dimmi. Lasciamene in voce, mi raggio, va. C'ho il mobile come qua, nuovo, parcheggiato, lasciamene in voce. Ma non c'è quello che c'ha Antonello, com'è che si chiama quello Antonello? Popugno! Ma attaccata alla bionda semi, alla Luca. Sì, lascia attacca. Cosa me ne posso? Non me ne posso spiegare. Poi paghi il sughero dratto, se rubi lì a fa, fatene lo fermo. A parte che non mi interessa. Sono lì a comprare baracchini. Devo sistemare il telefono ancora. Per carità. No, siccome quella scrivania paletta non è voi, salone, allora l'ho svuotata. Mi ho messo la mensola nel sgabuzzino, per adesso gli ho appoggiati lì i baracchi, poi già mi allungo il filo lì e lo uso lì da. Ma io ne ho due a casa, siamo lì fuori, senti la bonga, faccio più lucco. Mi devo culetta fuori, mi pare. E siamo con la scrivania. No, se ce l'hai cosa te ne fa? Io perché non c'ho posto, dove cavolo me l'avete? È un uomo che sta a casa. Avrei voluto una camera in più, già mi sarebbe andato bene, ma non ce n'è. Luca! Dillo! Dillo a Marina se fa cambio. Di che cosa? Di casa? Ehi, Tanti no che puoi già va tranquillamente. Ma manco si dai chissà canto. Infatti ti ho detto, Mari, se ci danno un cambio su al monte ci vieni, no, no, manco qua. No, non te ne dà, manco se li dai, anche nella giunta. Infatti, poi lui tu li sei in basso anche, poi sei proprio in alto. Oh, yeah! Se sono all'ultimo piano, cosa è in basso? Cosa si dice? Sì, ma a differenza di loro sono più alti. Ma cosa? Anzi, mi sembra che sei più basso tu. Come fai a dire siamo più bassi? Sei più basso tu, perché noi siamo verso l'alto della piazza, siamo più alti noi. Vedi che noi siamo più in alto di lui, se dalla finestra della camera da letto vedo il terrazzo, sei sotto Tiziana tu. Tiziana è a livello mio, tu Tiziana, quella che c'era prima, tu sei sotto a Tiziana praticamente, è come mia nipote sotto di me. È la stessa cosa, io sono più in alto di te. Noni. Come ti noni? Appacciata la finestra e guarda che tu per guardare qui devi alzare la testa. Ma comunque qua risulta più alto, vabbè, comunque. Sempre al terzo piano siamo noi. Vedi, io sono al quarto. Ma risulti più basso, grazie, capito? Io da qua vedo il terrazzo tutto del salone di quella parte e guardando così lo vedo più in basso della finestra mia di camera da letto. Dunque tu sei piccolo, io sono grande. La me. Aspetta. È vero. E allora, e beh in Cina come si stava, flipper? Un casino, mangiare il rane lì, un casino. Anche qualche cagnolino, chissà, i Doberman, anche quelli c'erano, aspettatino. Ma la pei! Illu! E non hai portato ranette qua? Ranette? Chi ne ha portato? Le rane! Che oltre non si può. No, comunque io sto cercando a fare il cambio a Porto Torres, chi vuole fare il cambio con la mia. Guarda che conosco una persona che lo fa a cambio. Se vuoi farlo, lo fammi questa. Questa qui sta cercando una casa qua. A Porto Torres, chi vuole fare il cambio. Eia, questa signora che conosco io sta cercando a fare il cambio. Aspetta che da mia moglie, che lei lo sa di più. Illu! Ah, state che abbisano, lo tenere nella porta d'ora di Nanni, va. Tu in un anno muori in Chibi. Luca, al villaggio satellite, mi pare che è vicino al villaggio satellite questa. Ma deve essere come questa, mi grande terrazzo, no? Cioè, non è che mi andando a peggio, no? No, mi sembra, adesso non te lo so dire, se è a pian terreno o al secondo piano, non te lo so dire di preciso. No, io voglio all'attico. No, questa mi sembra che o a pian terreno o primo piano, una cosa del genere. E come casa già mi sembra grande. Io ci sono andato a vedere lì, mia figlia lo sono accompagnata una volta, però sino alla strada. Mia figlia c'è andata, lei già lo sa ma non c'è. Ma un attico abbiamo terra, Alu. All'attico in cantina. No, ho capito. Grazie, ti interessa un attico abbiamo terra, bello mi. Sto poco, 50.000 euro stanno dando. Un attico a piano terra, sarà una ghentina a piano terra. Un attico a piano terra. No, non ha mai inteso attico a piano terra. Se cantina a piano terra, sì. Oppure una cantina con ascensore. No, a cantina con l'ascensore che scende giù non ne ho sentito. E poi non mi interessa giù. A livello di strada già mi interessa. C'è una mansarda anche, ho letto l'annuncio poco fa a me. Mansarda, piano terra. Comunque, un locume, piano terra, primo piano, secondo piano è mansarda con il terrazzo. Ma cos'è un rumore, grazie, che si copre? E sta prendendo il volo la lavatrice. Che cazzo mi aggagino che fatti? Il cuscinetto dove c'è la pulizia, però della ruota grande. Non lo so se vuole ingrassato oppure è partito qualche pallino. Ma tu se ne ha preso una bella, è legittima, digitale, ma santa, è bella. È un bel grande anche spazio, non so quanti chili è, bella, bella veramente. Cosa hai detto, Luca, mi sta facendo cosa paletta? Infatti se ne ha comprato uno a mio fratello a Porto Torres, bella, bella veramente. Quello blu un bel grande, cioè. È tutta digitale, non c'è manco una manopola, bella, ma proprio bella. Poi quando finisce, di là vuole fare una suoneria. Guarda che questa che c'ho è di 7 kg e pale la lavatrice. 8 kg, è grande, anche questa fa tutto da solo. Metti l'impostazione solo con la rotella e da qui andata tutta la zona a fare. Non tocchi nulla. Adesso mi sembra di affitto. Questa quanto è digitale invece? Questa è lo stesso, funziona da sola, non tocchi niente. Mette solo un po' di detersivo, poi che fa a un certo punto della faccia aggiungere l'ammorbidente e boh, fa andare tutta la zona a fare. Ho capito. Sì, allora molto, questa va intorno ai 1100, l'ha pagata la metà, scontato. Questa era l'offerta, l'avevo pagata 700 e più. Sì, va bene, dai, sono già in viaggio. Il cuscinetto è così perché l'ha pienata un giorno con un piumone, già c'è stato, però una volta che era zuppo di acqua, pigiava un bel e deve essere imballato un po' con lui. Il cuscinetto, con preso. Capito, zio. E adesso qualche giorno viene a giugare, la sposto un attimo, guardo se c'è il beccuccio dove mettere il grasso, e gli metto il grasso, se c'è, se no ce l'abbiglia a Chicciurugo. Canto di barra la cupa di Giuruga, ma... Non ce ne vuole grasso lì, graziato. Una volta che parte il cuscinetto, non ce ne vuole grasso. Come non ce ne vuole? Se l'altra volta, l'altra, l'ho aperta, era tutto schizzo di grasso e ne lasci da bru più dalla puleggia dove c'è il cuscinetto. Se è barrata, non il cuscinetto, un pezzo di salvento, la rasura, ed era tutto pieno di grasso. Ed è fuoriuscito proprio da lì. Lo sai, Luca, quello del paretto? A me stai dicendo? No, a Luca Flipper. Flipper! Che bisogna più a consalla che non a comprare la nuova. Cosa? Dicendo che non ne ha bisogno di manutenzione quei cuscinetti, una volta si rompono li devi o cambiare o buttarci la lavatrice. Sono chiusi quei cuscinetti, non sono quelli di una volta che sono aperti, che si vedono le sfere eccetera, capito? Quello una volta che è così ce lo devi buttare, oppure a pintate ciambama è un casino perché c'è il cestello, estrattore devi avere, non è semplice. Già lo so, ma infatti già rimane come in te, pensa chi cammina, quando uno cammina ti arrabbi di lungo, ma... Ti stavo dicendo, quello dei pannellini solari, quello dove ho comprato quegli altri, avevo ordinato quello come ce l'hai tu, no? E quale? Quello più grande da 60 letti, che costava 19,50. Già una di mi è arrivato chissù. Siccome questo imbecille stavo guardando e mi ha fatto una notifica, come avevo ritirato il parete e non l'ho pagato. cazzo l'ha giunta la parata, giù mai me lo mangio. L'ha detto che io faretti non ha giù né ritirato né comparato, l'ho solo ordinato. Scusa, da eBay, se hai comprato da eBay, prima devi pagare e poi ti arriva, non esiste. A meno che non abbia dato il contrassegno. Ma. Ehi, il pagamento in contrassegno avevo fatto, glielo ho anche scritto nelle email, che pagavo a contrassegno, quando viene il corriere devi sul dal corriere, gli ho detto. Perché guarda, non lo so, c'eri quel periodo che non funzionavano le macchinette per fare la ricarica della PayPal, non funzionava più di una settimana, né qua né anche a Sant'Orso. E allora gli ho detto facciamo il pagamento così. Io è già un po' che ho girato, siccome ho anche la posta eBay, ho registrato la posta eBay come eBay, no? Come PayPal, la stessa identica, così non devo stare ogni volta andare o a Santa Maria di Pisa o a Sant'Orsola, vado qui da Giampiero, mi ricarico la posta eBay e pago con quella, ed è come che sto pagando con la PayPal, capito? E così è la mia. Ah, c'hai la carta postale eBay? No, io quella me la devo fare, infatti, mia figlia già ce l'ha. È più comoda, capito? Cioè, perlomeno per me, tu magari il tabacchino ce l'hai più vicino, però molte volte succede che la PayPal hanno problemi. Allora, con la posta eBay quelli non ci sono, capito? Carichi la posta eBay e la usi come PayPal, né più né meno. Ogni volta ti devi uscire o a Santa Maria di Pisa o a Sant'Orsola, perché Giampiero non ne fa PayPal. Lo so, e infatti quella lì me la devo fare io, la per la posta eBay. Ma chi la verità dica mi ha già rotto le palle questo qua. O non funziona, oppure mi dice è già chiuso. Boh, adesso ti manco qua, cioè è già chiuso. Ma scusa, non chiudi alle 8. No, è già chiuso da loro, boh. Ah, fatti la posta eBay, vai in posta e ti fai quella lì. E poi entri nel sito della PayPal e fai aggiungi carta. Capito, in modo che loro vedano che stai usando la posta eBay e le stesse garanzie come la PayPal. Insomma, è poche parole, Gizio, mi ha fatto una notifica e l'ha scritto, come mai mi ha fatto la notifica? Innanzitutto non mi arrivi giunta, poi io l'ho ordinato e non ho pagato niente perché gli ho mandato la email che glielo pagava a contrassegno, siccome non l'ho ordinata ancora. Dunque non ha giù ricevuto l'usa e non ha giù pagato l'usa. E mi aveva fatto una notifica tramite eBay. Cazzo! Allora, se non rimaneva scritto come che io non avevo pagato la cosa, allora, se non ha giù manco ricevuto di cosa, cosa mi sei dice? Insomma, gli ho fatto un casino, l'ha giù a magnarsi. Ma loro se hanno aperto una richiesta è perché vuol dire che tu veramente l'hai comprato, perché loro poi mandano tutto a eBay, grazie, è poco di fuggimi, non è che puoi dire ma io non te ne ho comprato, se tu hai comprato a loro risulta, come risulta a loro poi loro lo mandano a eBay come oggetto non pagato, capito, è poco di fuggimi. Sì, ma poi eBay mi ha mandato una notifica scrivendomi, dicendomi che purtroppo il funzionamento di queste cose è tutto in automatico, ha funzionato in automatico, capito. E ha detto sì, funziona in automatico, però io non ho comprato niente, non ho ricevuto niente, cosa pago la cosa senza ricevere niente? Non ho capito, quando ho contratto io per via email glielo ho chiesto tramite il corriere a contrassegno. Dunque, come ti vedi voi a scrivermi che io non l'ho pagata la cosa quando non l'ho ricevuto? Allora mi hanno mandato questa email con cui c'era scritto che è una cosa che funziona in automatico quello. E allora va, molti giri, tu hai un bannello. Capito mi hai? Ma poi perché compri in contrassegno a pagare 5 euro in più quando puoi comparare con la carta e Perché non funzionava quel periodo, se te lo sto dicendo. Sì, vabbè, può aspettare un giorno, due giorni che non funziona. Ma non è che calzi mesi senza funzionare. Cioè, se non l'acquisti oggi, l'acquisti domani. No, è la piccola ghita, solo te lo posso dire, pur là, da mia moglie e la mia figliuta, che ha già mandato da essi, il no caro da macchina e a casa in torsola. Ed era più di una settimana. E tu fatti la posta e pì, così non sbagli. E tanto già c'è da andare alle poste, io mi faccio quella, va? Allora paghi 10 euro e poi entri nel sito di PayPal e fai, aggiungi carta e metti il numero della posta IP. Capito? E così usi quella lì e non devi farci di gabbo ne avuti. Ma vi posso adoperare anche solamente la posta IP e senza PayPal. Sì, però per avere le garanzie di PayPal devi aggiungerla come carta a PayPal. Capito, perché non dà garanzie chi acquista tramite PostePay, a parte che non ne accettano pagamenti tramite la PostePay, ormai quasi nessuno ne accetta più. Oh, eppure mi pare la giurigidio anche PostePay in quel settore proprio, c'è la PayPal, Mastercard e anche quella PostePay c'è. Non ti dà garanzie, capito, se tu compri, infatti se leggi il regolamento ti dice che se tu vuoi acquistare con la PostePay, non dà nessuna garanzia se succede qualcosa, capito? Ho capito, via. Va bene, io oggi mi sono arrivati due batterie che ho ordinato al litio, tramite Amazon. E mi sono arrivati gli ultimi. Anche io qualcosa l'ho comprata su Amazon. Mi sono arrivate le lampadine dell'impianto solare. Adesso la prossima settimana si piazza tutto e così c'è direttamente collegato il pannello solare. A me mi deve arrivare roba all'altro mese, da Wish però. 9 articoli avevo ordinato, ci sono le date quando mi arrivano. Anche lì devi guardare la convenienza, capito? Devi guardare sempre la convenienza, perché a volte conviene comprare su eBay tramite Cina che da Wish. Controlla sempre perché ci sono queste cose qua. Ma anche questa roba mi deve arrivare già pagata. Devo fare la ricarica che mi ho ordinato un altro articolo, però non avevo gana, anche non mi sono cantato. Domani me lo posso. Che raddoppi presi gli hai? Che raddoppi? Che raddoppi della bambola gonfiata? No, la bambola nuova ho preso direttamente. Questa è squimese. Sì, mi avevi mandato la foto. Conveniva di più, conveniva. Una che a Luca Maricomio ne ho ordinato. Luca, come la volevi, nera? Intesa Luca. Sì, perché Luca ti ha chiesto anche l'iglu gonfiabile, e invece tu non ve l'hai pigliato, visto, ma vabbè. Sì, via. No, mi ho ordinato, non ho trovato da nessuna parte di quel tipo di batteria. 12, la gente dice, ma lì me le ordinate, quando arrivi ne arrivi lì. Tanto già non sono ordinato. Guarda, c'è anche su Albo, compro anche lì. Convenzione, e mi vengono a costare 2,50 euro. In occhi una zona, 12 euro, a piena voce. E qua non fa comprare, no? Vai su AliExpress. Ma io questo sono ricarico già controllato, ti arriverà. Si carica batteria, per quello già ce l'ho. Per forza arrivano carichi. Erano carichi anche dentro la confezione. Tu quattro ore aprila, non riesci a aprire la confezione. Tutta in plastica, saldata era, proprio. Non si apriva, non si apriva, ma aprila. Stamane sono andato a fare la visita. E domani mattina? Già fai veloce per la patente. Era le 11 meno 20. Ma fatto entrare a Londra già un quarto. È vero. Cugnato Rory, le stelle mi ha fatto vedere, mi ha pigliato lo sangue da robusto, dall'artiglia. Ehi, a tutti che mi tiro la faccia prima che cosa mi tomba da faccia. Un po' dolorosa, già lo sa, già lo so, quello so che ho già fatto. E lei cerca di fare più poco doloroso, assai. Ma cos'hai fatto, l'emogas? E allora tutte le volte che vado me lo fanno, anche due volte me lo fanno, sia da un buccio che dall'altro. Picchietta, mamma mia, cosa fea, bubù. Cosa fea, dugna dolori, le stelle ti fanno vedere. È raro che trovi quello che ti ha la secca la prima, Una rimane secco, tutti e due buzzi, la di testa come faccio ad andarmene a casa? Che sono in macchina. Ma vedi c'è il bidato e chi ce la fa tirare il manziale? Ma lo so di dolore il giorno, ma le faccio tutte e due buzzi a chi non per ridicina, ne ho bisogno di figli. E lo so io questa, quando l'hanno fatta a mamma, ha visto le stelle. Se te lo sto dicendo, che ma dolore, poi quando trovi chi ci disgraziati che poni chi c'è in parenni, quelli che stanno facendo il tirocinio, chi ci è meglio nuda, meglio pigiare bene e tinnanda, chi ci ti scialmeteggia le bruci, non bisogna buoni. Beh, adesso domani devo telefonare, fra 3 mesi mi ha detto. Ma mangiando stai, Luca? No, grazie, sono qua. Sto facendo un po' di tiri al poker. Luca, da quel continente, da tua cugina? Flip! Beh, vabbè. Tore, ci sei? Tore, non c'è, Luca. Sento, Graziano. Marino! Oh, signor Marino! Sono seduto fuori in campagna, sono andato fuori. Attenzione, signor Marino! Senti, Tore. Mari, ma non lo senti, ti sta rispondendo, buonasera! Buonasera, Giovanni, è Tore, sotto, è la mafia di Riccia. Marino! Non risponde, Tore. Adesso non si intende? Per me l'ha messo, è strano, Attento, Marino. Ma non è da noi però, è da lui, dipende da lì, Attento, Gio Maria. Sento, Gio Maria, cambio. Ore. Attento, Marino. Attento, Gio Maria, cambio. Ma mi senti, Marino, buonasera. Certo, vi sento. Ho detto, Ettore, c'è la malattia di Enrico, non sento nessun dottore. Ma ti ha risposto, dottore, ma tu non l'hai risposto, però. Ettore ti ha chiamato varie volte, ma non l'hai risposto. E poco fa ero con il portatile fuori, se con il risposto non mi sente. Ma io vi sento bene a voi, capito? Ok, va bene, sono qui adesso, sono all'interno, va. Avanti, Giovanni. Siamo anche PME27, siamo anche. Siamo passati qua per chiamarti, capito? Dovrebbe essere, ma ci deve essere anche Tore qua, vedi un po' Tore. Giovanni, sono qua. Ciao, Mari. Buonasera, signor Toricino, noto squaletto. Ben sentito, ti stavo chiamando, ho detto, ma Tore c'è la malattia di Enrico anche oggi, dai. No, la malattia della Edu oggi. Tata, io la sento bene, sento a tutti, anche quando sei basso. Sai che non mi ascoltavi tu a me. No, veramente sentivo forte, sia a te sia a Gio Maria. No, siccome ero fuori, non ero dentro casa, dentro dove c'ho la, dove hai visto dove sono, ero fuori col portatino che uso in macchina. E ho sentito Gio Maria fuori forte, adesso chiamo. Gio Maria mi ha risposto, ma tu non mi hai risposto. Io ho già risposto, se tu che non mi intendi a me. Andiamo, dai, siamo appesi, va bene, dai. Ok, se la riprenda Gian Maria. Ok. Strano però, Oh, strano in questa frequenza, ogni tanto capita qualche indisguido, però non è niente di grave, per cui siamo tranquilli ugualmente, vero Maritto? Ma ci mancherebbe altro, Gian Maria. No, ero in macchina, io ero fuori, sono aspettato mia moglie che è andata a accompagnare mio nipote a scuola a calcio. E mi sono seduto in macchina, ho preso con il portatile che uso in macchina, come quando tu mi senti la mattina, no? Adesso chiamo. E siamo sentiti a te e a Tore, ho chiamato a te e mi ha risposto. Tore, chiamavo, ma ha detto, ma forse non mi sente. Mi sono leggermente spostato, non sentivo né a te né a lui, figurati, quanto è strana questa frequenza, ma va bene, no? Non fa nulla. Benissimo, avanti Tore. Sì, la cosa è come te questa frequenza. E non mi piace bannuta a me. E chissà a me, e va bene, là. Fino a quando possiamo utilizzare, si utilizza, non fa nulla. Poi se vogliamo passare al 27, passiamo al 27. Io è tutto acceso qua, non c'è problema. Sì, purtroppo è così. E così la lascia mandare. Andà bene. Ah, va bene, dai, già va bene. Avanti, Gian Maria. Se va davvero, fa mandare bene, poi forza lui, Mari. Problemi, vi so. Non ve ne so problemi, ma noi. Ok. Così è, Mari. Allora, cosa ci racconti Maria? C'è un sonno da morire, ho terminato, sono arrivato a casa alle 5, alle 5 sono arrivato, oggi ho fatto tutto una tirata. Così che alle 5, certo, da che ora? Da che ora? Ho iniziato alle 5 stamattina, ma sono uscito da casa, erano le 4, non ho 20, figurati, fuori di casa. Ho fatto da quell'ora fino alle 11.20 in zona, diciamo. Poi dalle 11.20 fino alle 5 ero sul camion facendo un altro servizio che faccio una settimana sì e una settimana no. Tutto qua. Bisogna lavorare, Gian Maria, la nostra famiglia, non bisogna far mancare niente, no? Quando c'è la salute e il lavoro, le cose vanno sempre a gonfie vele. Le due cose principali, la salute e il lavoro, e poi il resto se ne viene piano piano. Esatto. Vero Torricino, tutto a posto, sì? Il cane l'hai portato? Sì, e non te l'ho detto, dormito. Beh, da via da Edo. Ah, che vita che fa, proprio vita da cane, di la verità, to. Non vuoi di proprio. Ah, zio, stanno più bene loro che noi. Senza pensieri, e cosa deve imparare? Nulla deve imparare. Adesso mi dà inteso, da. Fidato se, siede di scendati. Se ne è pisato sei pulsato da anche via, gallo guida. Se magari si è offeso, anche non si va a fare i suoi, il suo collega Duglio. Avanti, Gian Maria. Così è. E chi è il collega di Tore? Chi è? Marchisio? Io, lui è il mio ex collega attore, Gian Maria. Ah, l'ex collega, infatti, sì. Da tanto tempo pure, vero? Quanti anni è tu? Già un paio d'anni siamo in pensione, già 2 o 3 anni, non mi sbaglio. 3 anni, che cosa? Quanto hai detto, scusa? 3 anni e qualcosa. E 3 mesi. Andare. Stamattina si è avvicinato giù alla capannone Pietro Russo. Ah, fa cosa? Allora sta Gianna. Dove avevamo visto c'era un fuglio, qualche fuglio nell'ufficio dove si mancava, non lo so. Sicuramente abbiamo nostalgia via. E vabbè, io sono da poi da un poco di mesi che ti manca qualche foglio e qualcosa che ti devi ritirare. Allora sì. E allora, lui è andato con 67 anni, 40 anni, più 67 e 8 mesi mi ha detto. L'ha fatto? L'età c'era? Sì, era ora, meglio così, dai. Meglio così, almeno si arrota un pochino anche lui, dai, avanti Gian Maria. Il tempo passa, Maria, il tempo passa. adesso corre di più il tempo. Adesso vola, vero dottor, sta volando? Sì, come te nuda. Mesi ba mesi di bassa impresa. Tu sei arrivato quasi a 70, così è tu? No, io ne devo fare ancora 67, ne devo fare. Sei un giovanotto, dai, sei un bambinetto. Già va bene, allora, dai. Già sono più vecchio io che tu. Il più giovane sono io, allora, Il più giovane di tutti. Vero, vero. Io l'ho fatto 57, più giovane, 57 anni. Come contributi ne dovrei avere, me lo fate controllare l'anno scorso, se non sbaglio, 39 qualcosa. E mi mancano quelli 2-3 anni che stavo lavoricchiando, diciamo, là. Siamo già superati i 42 anni, figurati. Bene, e tu, Giovanni, hai superato da 80, giusto? È entrato in 82. Meglio così, meglio gai. Testate che ti senti bene, fregate. Il tempo sta passando. Dunque la signora è molto più giovane di te, non mi sbaglio, Giovanni. Sì? La signora è molto più giovane di te, no? Mario? No. Non ho capito chi però. Tua signora? Di 4 anni. Vabbè. Meglio così, dai, testa sta bene a salute poi, piano piano, poi già lo sai, gli acciacchi ci abbiamo quasi un po' tutti, chi ne ha diversi e così via. Avanti, to. Sì, piano piano, ne sempre andendi, giorno per giorno. E che ci ferma è perduto, to. Esatto. E signor Bacchisio, dovrebbe essere già salito, sono già le 6:30 passate. Bacchisio? Attento, Bacchisio, si già entra subito là, magari si sta sistemando qualcosa. Avanti, Torici. Sì, sarà sotto l'albero del fico. Sopra l'albero del fico, sopra o sotto? Sopra o sotto? Cos'è, Mari? Sopra? No, sotto l'albero, ho detto. Sto capito sopra io, scusa, Mi sembra che sta tentando le cornacchie, perché gli stanno mangiando tutte le fave, gli stanno mangiando. A lui è sotto l'albero col tiralassico. Un altro animale schifoso, per carità. Ucci, animale vero, peggio da soli due. Davvero, aspetta. Ma mi sembra che le cornacchie siano più furbe di lui. La sono furbe, sì, maledetto. Ma lo sai cosa abbiamo fatto a me la cornacchia un'altra volta? Avevo trovato una tartaruga qui nella strada, non era grande grande. L'ho presa e l'ho messa giù. Giù c'è lei, non potevo uscire, diciamo, giù dove sono io adesso, nel senso di terrazzo, là. C'è un terrazzino e c'è un cancelletto. Sono tornato e non c'era più, quelli vicino mi hanno detto, ho visto la cornacchia con qualcosa con l'ha presa la cornacchia e stava portata via. Un attimo, Tom, che rientro subito, non c'è un attimo. Hai capito, Tom? Ho messo la tartaruga e il mio vicino mi ha detto, ho visto la cornacchia, l'ha presa e se l'ha portata via. Amore! Già so che no, che dice che accostendi. Ma non rispondi, la televisione stai guardando, scommetto, no? Sì, c'ho il televisore davanti. Le notizie fresh. Buonasera, signor Graziano. Questa voce bella squillante, avanti. Ciao, ben sentito, Marino. Ciao, Torre. Ciao, Graziano. Oh, Graziano, Torre, bisogna ci dare un sonno. Non c'è ormai mezz'ora prima di rispondere. Boh, dimmi qualcosa tu, perché a me non mi vuole sentire, a me, no. Dimmi qualcosa tu, Graziano. Ho fatto di tutto e di più. Oramai è irrecuperabile. Quando risponde, sì no, già sta giù via. Sto dicendo una cosa, insomma, l'ha chiamato di voi, ho solo fatto vedere da sola, poi la gente dice, già so io, sì ma non mi rispondi. Povero squaletto, avanti. Già ti sei già un po' gareddo? Devi andare a Apripon, Tore oramai, non intendi. Curi di noi, diventato un socio, lì si è bucato un timpano della Recci, con tutti i di noi che c'è penni, a paga in pensione, travaglienti di più, tu non hai afferrato il concetto, Marino. Sto capretto, sì, No, e non mi dici nulla, dunque, conviene avvicinarti da via Sproni, Ampiflor, ci sono le offerte adesso, avanti, to. E non mi risponde, boh, Mamma mia, avanti Garcia. A chi li devi giurare la carica? Oramai è fatto così, prova a lanciare un amo, a vedere a bocca. Torre! Ah, va bene che su paesi, grazie. Questa è una bella in otto casori. Cata! Che non c'è più poco di coso. E poi stai diventando più bello di me. Era reci la giuburiti. Cata, babù. Ero già marì. Andiamo e andiamo tu. E insomma... Mi fa chiarire. Ti sto chiamando, non mi rispondi tu. No, oh, so, ascolti a me vuoi la televisione. Spendi questa televisione, non c'è nulla, dai. Sì, non mi fa rispondere in mare pure a te, non basta che tu. Cata! Riprendetela Gio Marì. Me l'ho aspettato un attimino, no? E non so cosa stavate dicendo. Illuminami. Lo dico io, Gio Marì, scusa, La stavo chiamando poco fa, stavo parlando, stavo chiamando e non rispondeva. E una volta, e due volte, alla fine, dice, boh, questa qua è la mattina di Enrico. Allora è entrato Graziano, ma Graziano gli ha pestato la bocca, vero Graziano? E allora, ciao Gio Marì. Chi ti vicino bisogna bussarlo da amplifo, chi dà di una via c'ha meglio, tre o quattro voci, e adesso se si rispondi, altri immaginesi. E tu riposo dagi a te. Preghiccio, grazie, buonasera comunque. È la malattia del Bovari. Mi sa che è di ricchi, è diventato proprio sordo, finta il timpano si è buccato. E non intendi più? Bobo, intendi, scuole? No, ma vero, Non mica di... Non mica che è vero che ci siete graziati, no? Risponde, va! Non risponde! È più forte di lui! Se mi dassi fare i tassi, cacca, se interviene... non lo so, Guio, chi d'altro non sa cosa dice, già, dice nei barzelletti. Chiedo, tu... ti attacchi subito, a me adesso rispondi pure a me. No, apri fatto in via Sproni 48, ci sono 5 vetrine, vai ti fanno lo sconto, vai. Sì, guardi un po', andiamo, apri tengo occupati tutta la sera. Dai, ti vogliamo bene, tu già lo sai, a te ti vogliamo troppo bene, avanti Gio Marì. Come te la buri se mezzo a lugni. Grazie. Ehi, vabbè. Così è, cosa vogliamo farci? Purtroppo la vita è così, Marino. Ma sei salito fuori in veranda? No, poc'anzi ero giù. Là, fuori dopo che c'è la macchina, no? E c'ho le macchine, c'ho le portate lì, ho sentito la Gio Maria, l'ho chiamato, Gio Maria mi ha risposto, a qua rispondo a Ettore, oh, mi dà la scena giù e accendere questo qua, capito? Vatti a ti bari, così ti bari. No, è vero, no, non dico così tu, ma c'è una bandiera. Lo sai, ti voglio bene, io sono per la pace, no? Ma dove? La signora figlia. Che non c'è mai graziano che si fa di solo. Guarda, io non ti posso dire una cosa. Io la mattina, quando capita che uscire presto e attacco l'apparecchio in macchina, la prima cosa mi risponde, non è che risponde, Gio Maria. Gio Maria mi risponde subito, vero Gio Maria? Già è vero, già. Vado a sedo, magari scendo la telefono, magari aspetto Bacchisio, chiamo Gio Maria, la prima cosa, Gio Maria. A te ti chiamo, manco crepa, se uno è morendo, Bobo, avanti, grazie. No, non è così come ti sei dicendo tu. Non è così come ti sei dicendo tu, a chi? Se verrà già acceso ti rispondo, se non verrà già acceso non ti rispondo. Disgraziato. Ah, così è tu. Disgraziato. Ehi, invece ti mando il massaggio con i bacetti la mattina. Grazie, grazie, già lo so. Ma quello di stamattina però l'ho perso poc'anzi, perché ma ci ho messo gli occhiali, da ieri, boh. E se mi sono caduto e non mi sono accorto. Ma lo fa, l'ho perso, poi c'erano un paio di occhiali, l'ho perso e c'è quel tipo che mi fa quel segno. Ho detto, ma già lo sento, grazie, domani ne racconto quattro. Bello, mi grazie. No, poi l'ho chiuso perché ero in visita stamattina. All'ospedale, dunque l'ho chiuso il telefono. Se gli ha messo d'accordo, io quello che ti ho mandato l'ho acceso poc'anzi, sinceramente. sto attaccato, vedo cosa qua mi fa questo segno qua, boh, ho detto. Ma ti mangi niente, grazie, cosa mi manda la mattina, avanti do. Uia, uia, andiamo per andiamo che sono paesi. Quello è già un bel paese, va. Dove te vuoi andare? A Portogallo oppure in Spagna, to? Ah, ma no, è troppo difficile, so. Ma sei in Spagna, è facilissimo, non paghi nulla, è tassi, nulla. Ah, va per il socialismo in Spagna, non conveni. Allora, come andare in Portogallo? Mi sa che è pure i tipi, l'ha fatto vedere oggi. Al telegiornale, ha vinto il Partito Socialismo. E alla compagnia rimane no, che dottor, rimani qua, no, non andare da nessuna parte, avanti Giovanni. Ok, infatti, io ne approfitto, dai Mari, devo chiedere che c'è, sta venendo gente, per cui ne approfitto. Salutoni, a domani se coincide. Saluto in casa, ciao grazie, saluti in casa, ciao Tore, altrettanto, saluto in casa, riprendi tu, chiudo, vai. A domani. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, ok, riprendi Mari. Benissimo, tutto è cambiato, Giovanni, domani sei concilia, dai. Sei in casa, ce l'ho domani mattina. Benissimo, avanti, grazie. Ciao, buon proseguimento in serata, buona carica, vado alla festa, saluti in casa, anche la parte paletta. Ok, ok, c'era Luca, manicomio, anche Luca Flippe, sparisce, aspetta chiama a Luca ci sei? Negativo, evidentemente si è assentato, tutti e due, riprendi Mari. Mari, domani mattina faccio colazione con tuo nipote, bene si va, sono Gianmario. Ah, chi sta dicendo a me? No, a Gianmario forse è già chiuso, dai. Ok. E allora, scuoletto, come va oggi? Tutto a posto, sì? Sì, stavaci. Poi vediamo, più ad avanti. Ma in bici non stai più scendo, no? No, ancora no. Troppo presto a scia, va. Dove pensiamo le giornate, fra poco, speriamo bene. Almeno puoi anche uscire a farti una bella passeggiata. Cioè, Graziano si è preso la bicicletta elettrica, automatica. Lui si siede e va da sola, vero Graziano? E allora gli ha zitta la bicicletta elettrico. Non hai sentito al telegiornale che adesso mettono una nuova tassa per le biciclette elettrico? Perché non sapevo che ti ho fatto apposta, tutto per vendere prima, capito? La bicicletta senza targa, senza casco, senza circolazione, adesso che stanno vendendo, mettono la tassa, per forza no. Devo ricavare un po' di soldini, avanti to. Ehi, lascia pellino, che non verdescini. Che è contrario, che è chi c'è, che è d'altro. Non verdescini a fare la dassa. Per carità. Non sa negato che ho cosa buoni. Ehi, andiamo così, andiamo. Affatinai, non venuta in vano, avanti, grazie. Ehi, stavo parlando con mia moglie, ma... Ehi, altro che non ci riescono, vedrai che la mettono. Tanto lo è lo Stato, puzzinosi. Vedrai che lo mettono, quella tazza a pagare, vai a vedere. Stiamo piano, devo un po' di soldi, devo togliere, devo ricavare un po' di soldi. E perché non si abbassano lo stipendio loro invece? Se invece loro si abbassavano ancora un altro poco lo stipendio, vuol dire che tazza non aumentavano, vero che tolle. Certo, cos'è che stavi dicendo? Ho detto, se non si abbassano lo stipendio, no, vuol dire, se si abbassano lo stipendio, tassa non le mettevano, siccome stanno sempre aumentando, stanno, no? E vanno dunque per aggiungere sempre più tasse, a pagare sempre noi, no? Sì, uia, andiamo via, andiamo. Se arrivassi non fate ne be giù, ma non penso che la mettano... Vogliamo mettere delle leggi di usare il casco e quanto ce n'è e di stare nelle giuste vie. Speriamo bene. Mi sto spostando due minuti, mi sta chiamando mio nipote. Scusate un attimo. Avanti, grazie. Ehi, del casco già lo so, quello già è obbligatorio anche da prima. Ma anche con la bicicletta normale è obbligatorio. Il casco e quel giubbino... fuori quello che si vede anche di notte, fuori, come si chiama? Fosforescente, è quello, le luci anche dietro nella bicicletta. Ti do questi anni, vedrai che ci riescono a mettere anche quella tassa. Avrà, vedi. No, la tassa no, non la vogliono far mettere, l'assicurazione è che vogliono far mettere, quello è. Beh, così fa ingrassare pure l'assicurazione, no? Ma chi insomma, meno male già, lui, chi sei famiglia me la giuventù della bicicletta, e cosa ne fai? Sì, anda a vedere chi ad Abui, ma non pensi che anda a Danza, che se no nessuno più tratta bicicletta. Se no, dove stanno i buoni assicurazioni a chi si corre in bicicletta? Tutto canto è tutto una dassa, ma senti milioni so.